Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani, l'ultima puntata della settimana. Cosa affrontiamo oggi? Quale argomento? Il tema dell'investimento nel mattone, perché nel primo trimestre di quest'anno le famiglie italiane sono tornate ad investire in questo settore. Secondo una rilevazione Istat diffusa due giorni fa, le compravendite hanno segnato un aumento del 2,3% appunto nei primi tre mesi di quest'anno. Per la verità questo è un dato sì positivo, ma ce n'era già stato un altro che forse è passato un po' più sottotono lo scorso mese di luglio, che era stato diffuso dall'Agenzia del Territorio, secondo la quale l'aumento delle compravendite sempre nel primo trimestre di quest'anno era stato del 3,4%. Il monitoraggio viene però condotto in maniera diversa, poi magari vi spiegheremo nel dettaglio come vengono condotte le due appunto analisi, quella dell'Agenzia del Territorio e quella dell'Istat. Di fatto però che sia un più 2,3%, che sia un più 3,4%, possono magari ai più sembrare percentuali poco significative, ma in realtà per tutti gli attori del settore sono considerate tutt'altro che irrilevanti. L'Istat parla chiaramente di un settore che esce dalla depressione che l'ha investito dall'inizio della crisi, quindi da oltre tre anni, ed è chiaro però anche un altro aspetto: il balzo si nota proprio perché si partiva un anno fa da una situazione molto bassa. Cosa vuol dire? Che il primo trimestre dello scorso anno era stato contrassegnato dalla maggiore contrazione delle compravendite di unità immobiliari avvenuta negli ultimi anni, -16%, per cui l'inversione di tendenza osservata nei primi tre mesi del 2010 ancora non riporta il volume delle transazioni ai valori precedenti la caduta. Comunque, il settore si sta rimettendo in moto ed è complice anche la riattivazione del circuito del credito, perché sempre l'Istat certifica che i mutui nel primo trimestre dell'anno sono balzati del 13,7%, anche questo dato molto positivo ma da analizzare disaggregato, e poi anche su questo appunto ritorneremo. Comunque, tutti questi dati che sono stati diffusi di recente, e stamattina viene presentato anche a Santa Margherita Ligure il rapporto dell'Istituto Indipendente di Ricerca e Scenari Immobiliari, poi ve ne daremo qualche anticipazione, alcuni dati sono già in circolazione sulle agenzie, insomma tutte queste cifre sul settore immobiliare stamattina ci hanno riportato ovviamente sul settore anche come tema di analisi di Salva Danaio. E allora due esperti con noi questa mattina: Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di UBH, una grande holding di partecipazioni immobiliari, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. Era da ben un anno che non veniva da noi, accidenti, dottor Ghisolfi, così come da un bel po' di mesi che non sentiamo, quindi un bentornato volentieri anche a lui, il dottor Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Dottor Castiglia, buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Remax, lo voglio ricordare, è un network immobiliare mondiale, forse il più grande a livello mondiale, conta qualcosa come 100.000 agenti immobiliari in 80 paesi nel mondo, molto presente negli Stati Uniti, quindi anche molto interessante l'esame che possiamo fare di confronto tra quel mercato che è in grossa difficoltà e il nostro che è in difficoltà, ma per fortuna non ha subito, questo l'abbiamo detto tante volte, il tracollo di altre economie. Quindi ci sono tanti spunti da poter considerare stamattina, sui quali poter riflettere insieme, magari anche grazie alle vostre osservazioni all'800240024, oppure ci potete scrivere, se non volete intervenire telefonicamente, al 349-238-6666. Dopo il balzo di ieri, il quadro di borsa stamattina è negativo perché Parigi scende dello 0,34%, Francoforte dello 0,44%, un po' meno Londra, perde lo 0,16%, Milano invece perde un po' di più, -0,57%, perché oggi tornano a scendere tutti i titoli bancari. Cosa è successo? Lo abbiamo anticipato nel giornale radio. Da ieri circola questa indiscrezione e sappiamo bene che quando queste notizie circolano e hanno questo effetto è probabile che qualcosa stia bollendo in pentola. Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, ha smentito stamattina, ma pare che si potrebbe accingere a lanciare un maxi aumento di capitale qualcosa che vale tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro, e questo stamattina appunto è servito a far piovere di nuovo le vendite sui titoli del settore. Fondiaria, il peggiore di Piazza Affari, perde 2 punti, anche se è un assicurativo. Banco Popolare meno 1,73, Unicredit meno 1,61, Ubibanca perde 1,5 punti, Intesa l'1,43%, e abbiamo un calo di 1 punto per Monte dei Paschi, per Italcementi e anche per la Popolare di Milano. Si mantengono invece le vendite su gli acquisti su Geox, che guadagna 2 punti, Atlantia, la ex Autostrade, guadagna l'1,18%, Fiat in rialzo di 1 punto. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, e come vi anticipavo oggi ritorniamo un po' sul settore immobiliare per capire che scelte stanno compiendo da qualche mese a questa parte, almeno dall'inizio dell'anno, le famiglie italiane. Buone notizie per il mattone. La caduta delle compravendite immobiliari sembra essersi fermata. Nel primo trimestre 2010 è stato registrato infatti un aumento dei rogiti del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La discesa era partita nel 2007, primo di 3 anni consecutivi con il segno meno, anche se già nel 2009 aveva registrato un rallentamento. Il 93% circa delle compravendite stipulate riguarda gli immobili ad uso residenziale, mentre la percentuale restante le unità destinate ad uso economico, che continuano a registrare un andamento negativo, seppur inferiore rispetto ai mesi precedenti. A livello geografico, le compravendite totali crescono maggiormente nel nord-est, più 3,7%, mentre al centro e a sud restano allineate alla tendenza nazionale, più 2,7% e più 2,6%. Nel nord-ovest e nelle isole, invece, si hanno gli aumenti più contenuti, rispettivamente dell'1,5% e dell'1,1%. Contestualmente all'aumento di compravendite, sono cresciuti i mutui stipulati, con un balzo del 13,7% in rapporto al primo trimestre 2009. Gli italiani sembrano dunque tornare alle vecchie abitudini e a puntare sul mattone. Il tutto alla luce del fatto che i prezzi degli immobili, seppur diminuiti, non hanno registrato cali vertiginosi. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Comincio con Dario Castiglia perché è utile fare anche un'analisi dettagliata, compiuta di tutti questi dati che abbiamo, inserirli naturalmente anche in un contesto macroeconomico, magari anche queste riflessioni interessano i nostri ascoltatori. Dario Castiglia, dicevo, responsabile appunto della Remax Italia, quindi una persona che naturalmente, proprio per il tipo anche di società che segue, deve monitorare attentamente anche quello che accade sul mercato, sul tessuto internazionale. Insomma, in che contesto si colloca il mercato immobiliare italiano in questo momento rispetto al panorama internazionale, dottor Castiglia? Ma sicuramente, con riferimento agli altri mercati internazionali, il mercato italiano ha tenuto meglio di tanti altri, sia in termini di volumi che poi soprattutto in termini di prezzi. Quindi diciamo che la crisi che è iniziata nel 2007, si è centrata poi nel 2008-2009 e che ha investito il mercato locale nostro, italiano, è stata sicuramente di minor intensità di quella, per esempio, che ha attraversato e continua a attraversare il mercato immobiliare statunitense, o quello anche di altri mercati europei, vediamo la Spagna, l'Irlanda, l'Islanda e altri paesi. Quindi l'interesse, diciamo, verso il mattone degli italiani, correggendo forse quello che diceva prima la signorina, è sempre rimasto molto vivo e continua, visto anche l'andamento della borsa, che comunque continua a tenere gli investitori lontani, soprattutto l'investitore tradizionale come quello italiano. Questo più 2,3% evidenziato dall'Istat, che si unisce anche al dato precedente, quello che citavo dell'Agenzia del Territorio, più 3,4% nelle compravendite, certo, all'inizio dell'anno, sono comunque percentuali che sono ritenute interessanti da voi operatori del settore oppure poco rilevanti? No, sono sicuramente, io lo definisco un po' in gergo borsistico un rimbalzo tecnico, nel senso che è ovvio che lo vedo con ottimismo, con cauto, però con caveat, nel senso che per poter sostenere una ripresa dei volumi e quindi ritornare a quelli che erano i volumi pre-crisi, penso che dovranno passare ancora un bel po' di mesi. Ecco, parliamo di mesi, per fortuna, non di anni. Chissà quando... potrebbe perché anche se sono 24-36, certo. Anche 24-36 mesi. Ecco. Nel senso che, diciamo che potremmo avere nel futuro anche delle inversioni di tendenza, cioè quindi degli aumenti, ma anche dei piccoli ritocchi all'ingiù di quelli che sono i volumi, e quindi sostanzialmente una stabilità del mercato. Una stabilità del mercato. Beh, mercato stabile non è magari quel mercato invece ingessato, non so se poi i due termini si equivalgono, che era stato utilizzato questo termine appunto ingessato per esempio dallo studio di Nomisma alla fine di giugno, all'inizio di luglio. C'è anche poi, come vi dicevo, il rapporto di scenari immobiliari che è stato diffuso poco fa, lo stanno battendo le agenzie, addirittura si parla di un mercato italiano che ha ancora notevoli zavorre che ne rallentano la crescita potenziale nel residenziale, dice Scenari Immobiliari. Poi noi ci collegheremo con Santa Margherita Ligure. C'è ancora una forte offerta di invenduto di scadente qualità e la debolezza del sistema del credito alle famiglie. Ghisolfi, il vostro osservatorio invece che cosa sta raccontando? Voi i dati vi presenterete sulle previsioni per i prossimi mesi, ma anche un po' su quello che è successo in casa vostra nei primi mesi di quest'anno, verso la fine di settembre. Sì, però ci deve anticipare qualcosa. Sicuramente, infatti i dati che noi abbiamo rilevato, posso già dire che per esempio anche il secondo trimestre, a dire il vero i nostri dati arrivano fino alla fine di luglio, confermano questa tendenza positiva delle compravendite degli immobili residenziali, mentre sul lato del non residenziale si conferma una forte crisi degli scambi. Per quanto riguarda quindi i dati dell'Istat o dell'Agenzia del Territorio, siamo in linea. Ho detto Agenzia delle Entrate io prima per caso, mi sta venendo in mente che mi sono sbagliato, Agenzia del Territorio, più. Esattamente. Sì. E siamo anche noi perfettamente in linea, cioè soprattutto poi se si va a spezzettare un attimo il mercato a guardare, perché sono soprattutto i mercati delle località metropolitane, delle grandi città, che stanno dando così una linea di tendenza nuova, impulso. Però vorrei anche precisare una cosa, che quando si parla di percentuali se andiamo a vedere il numero stiamo parlando di 5-6 mila compravendite in più rispetto al trimestre dell'anno scorso, e 5-6 mila compravendite in più in tutta Italia sinceramente non sono questo gran numero, per cui polverizzano in sostanza. Esatto. Si parla di segno più, e questo è secondo me il messaggio più importante, perché erano ormai più di 2 anni che si ragionava soltanto sul segno meno. Quindi insomma, se lei dovesse dare adesso, perché devo andare in pausa, una definizione all'andamento del mercato: è zavorrato, è ingessato, stabile, come ci piace definirlo? Ma io lo chiamerei un mercato che si sta lentamente risvegliando. Riflette sul risveglio. Riflette sul risveglio. 800 24 00 24, numero verde per le domande, ne sono già arrivate, io lo sapevo, insomma il mercato immobiliare piace sempre molto ai nostri ascoltatori. Sono pronti Antonio da Vicenza ed Emiliano da Parma, che sentirò subito dopo la nostra pausa. Salvadanaio ritorna con voi questa mattina per esplorare le tendenze e le prospettive del mattone italiano. Siamo partiti dall'ultima rilevazione dell'Istat, che certifica per il primo trimestre di quest'anno un aumento delle compravendite del 2,3%. Ghisolfi, visto che l'abbiamo promesso agli ascoltatori, spieghiamo come mai la rilevazione dell'Istat porta ad una certa percentuale, quella dell'Agenzia del Territorio ad un'altra. Poi anche magari depuriamo un po' questo dato sul balzo dei mutui, più 13,7%, forse questo è più interessante, il tema che dentro non ci sono solo mutui nuovi. No, esatto, infatti lì dentro ci sono le surroghe e le sostituzioni fondamentalmente, per cui bisogna dargli una bella sforbiciata. L'Istat rileva tutti i contratti che sono stati fatti in banca, poi magari non dettagliando su che tipologia sono. No, invece la differenza fra il dato dell'Istat e quello dell'Agenzia del Territorio, che da quello che capisco l'Agenzia del Territorio rileva le unità immobiliari, l'Istat i rogiti. Esatto, perché l'Agenzia del Territorio rileva dalle conservatorie tutti gli atti che sono stati registrati, dopodiché però fa anche una artificio statistico, perché non tutti gli atti possono essere fatti da un'unica persona, ma anche da una o più persone, per cui deve fare una divisione all'interno. L'Istat invece dai rogiti attraverso la collaborazione con i notai, quindi c'è una discrepanza che appunto risalta di un punto e mezzo percentuale. Comunque il bello è che abbiamo il segno più su tutte queste statistiche, e per fortuna il segno meno certo non c'è. Allora, sentiamo qualche ascoltatore per poi risentire anche Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Andiamo da Antonio da Vicenza. Antonio, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti quanti. Io volevo sottoporvi questo mio ragionamento. Io stavo valutando la possibilità di acquistare un mini appartamento ad uso locazione. E il mio ragionamento è questo qua. Facendo il rapporto tra quanto costa l'appartamento e la locazione che posso tenere, viene fuori che il canone di locazione annuale è attorno tra il 5 e l'8% lordo del costo del mio appartamento, che va depurato dalle tasse, dalle spese e dal rischio che questo appartamento non venga sempre locato, perché c'è anche questo rischio. Ora, il mio ragionamento è questo qua. L'investimento di questo genere, secondo me, ha senso nel momento in cui io faccio in modo che il mutuo che vado a pagare per questo mini, perché non ho la disponibilità attualmente di acquistarlo cash, sia più o meno vicino alla rata di della locazione che posso tenere, potendo sopportare ovviamente i periodi di non locazione. Io mi troverò fra 20 anni, 30 anni, quel che è, un appartamento che non avrei potuto acquistare con le mie forze. Quindi non è tanto il rendimento finanziario che ottengo dalla locazione, ma il fatto che avrò un bene che non avrei potuto comprare con i miei soldi, ma lo ha, tra virgolette, pagato qualcun altro a posto mio, cioè gli inquilini che ci sono stati. Antonio, lei naturalmente ha già una sua casa di proprietà. Sì, sì, ho la fortuna di avere la casa di proprietà e di non avere un mutuo da pagare su. Beh, sa, lei ha fatto un po' tutte delle considerazioni di convenienza economica, poi bisogna farne magari anche qualcuna di natura personale. Dario Castiglia, insomma, adesso magari lei chiaramente gestisce tutto il suo network e probabilmente è un po' meno interessato alla trattativa individuale, perché magari per lavoro non ne fa più, non lo so, poi magari ce lo dice lei, ma insomma un ragionamento di questo tipo fila, a suo avviso, insomma, cosa suggerirebbe al nostro ascoltatore? Detto che, per quello che riguarda l'impressione della conduttrice, che soldi non soldi, potendo io investirei tutto quanto in mattone se fosse per me, ma queste sono delle scelte assolutamente individuali. Insomma, Antonio sceglie il mattone invece del bot e della borsa. Debora, hai perfettamente ragione, è un po' che non mi diletto a fare intermediazione immobiliare, sebbene ho iniziato circa, ahimè, 27 anni fa. Il nostro radioascoltatore penso stia facendo un investimento, mi sembra dai numeri che ha appena detto, è molto interessante. Io penso anche la nuova legge sulla cedolare secca del 20% sugli affitti, questo sicuramente darà maggiore impeto a quello che l'avvicinamento degli investitori all'acquisto di un immobile per investimento, perché questo permette un'imposizione fiscale sinceramente molto più vantaggiosa, agevolata. Sì. E l'8% di ritorno su l'immobile non è usuale, solitamente i rendimenti sono un po' più bassi, quindi se riesce a ottenere questo rendimento su questo appartamento dovrebbe riuscire ampiamente a, dipende poi da quanto il mutuo, in qualche percentuale diciamo il mutuo sul valore dell'immobile viene acceso, però se riesce a pagare la rata del mutuo, ecco, l'unica cosa che si deve assicurare è che il tasso del mutuo sia per tenersi a riparo appunto da sorprese che potrebbero avvenire nel futuro, magari a un tasso fisso. A un tasso fisso, che praticamente peraltro adesso è anche estremamente conveniente. Sento anche Alessandro Ghisolfi, peraltro ascoltatore ci chiamava da Vicenza, il Veneto, se volete anche cominciare a darci qualche indicazione sulla territorialità dell'investimento in mattoni. Il Veneto, Ghisolfi, cosa dice la vostra statistica in sostanza? È un mercato... riflessivo, come lo definivamo prima in termini generali, oppure un po' più vivace rispetto al resto d'Italia? È un mercato che sta da una parte soffrendo un po' dell'offerta molto alta che c'è stata soprattutto sul nuovo, nelle periferie di Padova, di Verona, Mestre, però come d'altra parte si vede anche dai dati sui volumi di scambio, è un mercato che rispetto a quello del Piemonte o anche della Lombardia sembra essere leggermente più vivace, quindi è un mercato mercato che comunque ha sempre dato delle ottime soddisfazioni sia in termini di rivalutazione del capitale, soprattutto poi in cittadine di, appunto, chiamiamole di provincia, come Vicenza, appunto, come Padova, dove poi c'è l'università e per cui il discorso dell'acquisto per investimento si fa ancora più interessante, proprio per il fatto che ci sono gli studenti che vengono anche da fuori sede per poterli affittare l'appartamento. Quindi è sicuramente territorialmente, diciamo, nel nord Italia, non dico la regione più vivace, perché comunque la Lombardia resta la capofila, però rispetto a Piemonte o a Liguria sicuramente una marcia in più. Ha fatto un ragionamento che fila il nostro ascoltatore. Lui dice: io mi ripago l'investimento che faccio, tra l'altro anche preso in considerazione eventuali momenti di non affitto dell'immobile, certo, al quale è interessato, e in sostanza un investimento che si può ripagare mentre lo si sostiene. Molto interessante, perché per esempio l'investimento in borsa, a meno che non si abbia un flusso cedolare enorme, ma non è sempre detto, perché con un aspetto molto variabile anche delle società, non lo permette, così come l'investimento nel settore obbligazionario. No, infatti è chiaro che il nostro ascoltatore si trova in una posizione, diciamo, piuttosto privilegiata, è proprietario di casa, non ha mutui da pagare sulla sua casa, per cui evidentemente ha deciso di fare un investimento facendo un mutuo, ma ripagandosi il mutuo con l'affitto che riesce, e contando poi sul fatto che poi ci sarà negli anni la rivalutazione dell'immobile. Per cui questo tipo di ragionamento lo fanno tante persone, non solo in Italia, però è un tipo di ragionamento che deve essere fatto soprattutto mirando determinate tipologie di immobili. Esattamente, perché tra l'altro lui si è soffermato molto sulla sostenibilità dell'onere finanziario per se stesso, però deve partire, certo, anche magari dal presupposto che facendo una scelta di un immobile giusto e quindi magari perdendo un po' di tempo prima di avventurarsi nell'acquisto, appunto, anche se ai fini di investimento, forse vale la pena spendere un po' più tempo lì. Quello è fondamentale, anche perché appunto noi abbiamo visto che in questi ultimi due anni, dove c'è stato letteralmente un crollo delle compravendite, soprattutto da parte delle famiglie, delle coppie giovani, delle famiglie di extracomunitari che lavorano qui da noi, eccetera, cioè tutti coloro che non riescono più ad accedere al credito così facilmente come si faceva pre-crisi, pre-credit crunch. Da questo punto di vista la domanda di immobili in locazione è risalita, soprattutto nelle realtà, appunto, ripeto, i comuni della provincia, comuni da 11.000-15.000 abitanti, massimo 50.000 abitanti. Ed è soprattutto in queste realtà che si muove di più il mercato, perché invece se poi ci caliamo in realtà metropolitane e lo vediamo per esempio qui a Milano, i cartelli affittasi ce ne sono tantissimi, di cartelli vendesi ce ne sono molto meno. Dario Castiglia, in base anche a quelle che sono le rilevazioni che lei può avere a disposizione sulla base dell'attività dei suoi agenti sul territorio, tra l'altro quanti ne avete in Italia, Castiglia? Quante sono le agenzie di Remax? Noi abbiamo quasi 1500 operatori immobiliari adesso sul territorio e in circa 196 ubicazioni. Quali sono le realtà più vivaci in questo momento, quelle dove effettivamente il mattone sta dando più segnali di risveglio che più segnali di pausa, di riflessione? Ma sicuramente diciamo che nelle grandi aree metropolitane noi stiamo avendo un aumento del numero di volumi di compravendite. Le devo dire che noi abbiamo un dato molto interessante che supera anche quello dell'Istat. Noi da inizio anno rispetto al 2009 abbiamo registrato un incremento del numero di compravendite di circa il 28%. Questo in parte è dovuto ovviamente a un aumento anche strutturale, diciamo, della nostra rete, però in parte è anche dettato dalla vivacità del mercato e da una maggiore penetrazione anche del mercato in questi momenti. Certo. Riteniamo che le piazze sia di... Abbiamo registrato vivacità soprattutto sulle grandi città tipo Torino, Milano, ma anche la stessa Roma. No, Roma è interessante perché siccome è una città che ha fatto molta fatica a ridimensionare i prezzi e quindi insomma se si è ripartiti anche lì significa che forse lì ci si è rimessi in moto in maniera interessante. Io mi devo fermare per un attimo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, chiedo pazienza ad Emiliano da Parma perché poverino era dovevamo sentirlo poco fa, poi la telefonata caduta, l'abbiamo ripescato un attimino solo, anche Cristian di Varese, sentiamo cosa succede sulle strade italiane. Salva Danaio. Prima di proseguire la nostra chiacchierata con Alessandro Ghisolfi e Dario Castiglia, prima di sentire i nostri ascoltatori, io vado così virtualmente a Santa Margherita Ligure al forum di scenari immobiliari, forum di previsioni e strategie del settore, perché stanno venendo fuori tante indicazioni interessanti, qualcuna ve ne ho già anticipata, ma dove c'è soprattutto la nostra Evelina Marchesini, collega del Sole 24 Ore, responsabile degli inserti del Sole sul mattone mondo immobiliare case e case, che peraltro questa mattina, se non è già stata premiata, lo sarà in qualche minuto, riceverà appunto il premio AREL, Associazione Real Estate Ladies Renovation Lady. Intanto Evelina, congratulazioni e poi raccontaci un po' che aria tira lì, insomma, cosa si sta dicendo. Grazie Deborah, buongiorno innanzitutto, saluto tutti gli ascoltatori naturalmente. Qui c'è un'area, diciamo, incoraggiante, segnali incoraggianti di ripresa per il mercato immobiliare. Naturalmente restano i problemi di base, i problemi economici e di mercato che ancora non sono risolti. Se volete vi do qualche dato, certo, al volo. Il fatturato globale europeo sceso del 13% nel 2009 vede già nella prima metà del 2010 un miglioramento anche rispetto agli Stati Uniti. Sul residenziale vanno bene Germania e paesi nordici, stabili l'Italia e la Gran Bretagna. Naturalmente continua ad andare male dopo il meno 20% del 2008, il meno 10% del 2009, continuerà ad andare male la Spagna. Sono andati, se vogliamo parlare di residenziale, quindi di case, che forse sono il settore che più interessa gli ascoltatori, sono andati comunque abbastanza bene gli immobili di pregio, e a livello globale si può registrare un netto miglioramento nel 2010 e ulteriormente nel 2011 per quanto riguarda complessivamente gli investimenti nel settore immobiliare non residenziale. Tra l'altro un dato indicativo, gli investitori istituzionali investiranno nei prossimi due anni nel mondo oltre 150 miliardi di euro nel mattone. Beh, insomma, potrebbero dare un impulso non indifferente alla ripresa globale di questo comparto. Evelina, leggevo nel rapporto di scenari immobiliari che le previsioni per il 2011 sono di un consolidamento dei trend emersi negli ultimi mesi, ma ancora non si vedono spinte forti per una vera ripresa, e ancora mi soffermo appunto sul mercato immobiliare italiano. Qualche elemento in più sul nostro paese? Qualche elemento in più? Beh, innanzitutto il giro di boa c'è stato. Il giro di boa alla fine del primo semestre 2010, non solo secondo i dati di scenari immobiliari, ma anche secondo quelli di Tecnocasa, che noi anticipiamo sul Sole 24 Ore di domani, anche se verranno presentati settimana prossima. Benissimo. Il fatturato non scende più, quindi ci dovrebbe essere un ulteriormente rafforzamento di una leggera ripresa. E soprattutto un dato che mi sembra importante è il fatto che le famiglie italiane ricominciano a comprare casa per investimento. Pensa che sul totale degli acquisti del primo semestre 2010 il 20% è stato effettuato dalle famiglie come investimento, probabilmente anche in mancanza di altre alternative. Di alternative. Sicure, come sappiamo. I bot danno quello che danno, certo. Scusami, questo è un dato sicuramente da rilevare e importante. Benissimo. Volevo solo aggiungere, poi vi lascio andare, che ci sono stati individuati qui già a Santa Margherita due nuovi settori, due nuovi driver, che sono quello dell'università e quello della sanità, che dovrebbero vedere i maggiori sprint nel corso del 2011 e del 2012. Avremo modo di seguire queste tendenze. Evelina, intanto grazie molte perché ti abbiamo anche distolto insomma da questa cerimonia di premiazione questa mattina. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie, grazie anche per averci anticipato i temi di domani di Case e Case. Ha sentito quali settori ghisolfi bisognerà cavalcare nei prossimi mesi? Sanità e università? Beh, l'università non rappresenta esattamente una novità per il settore. No. Sul settore sanitario, secondo lei, insomma, vanno riconvertiti gli ospedali, cosa? Ma il settore sanitario, a dire il vero, non è neanche una novità questa, perché io mi ricordo che già nel 96-97 c'erano già stati degli studi, quando lavoravo in un'altra grande società immobiliare si facevano sviluppi e promozioni su questo settore. Sicuramente però sono delle, chiamiamole se vogliamo, dei segmenti che possono dare molto di più, perché certo, comunque nel nostro paese un po' tutti i segmenti potrebbero dare molto di più. Però di insomma il segmento sanitario credo che sia d'appannaggio degli investitori istituzionali. Il tema certamente universitario, che diceva Evelina Marchesini, invece è un tema che può essere sicuramente anche cavalcato dalle famiglie che magari possono acquistare una casa in una grande città. Beh, pensiamo anche agli edifici per studenti, certo, che è uno dei grandi problemi delle nostre città ed è uno dei grandi problemi del fatto appunto della locazione per gli studenti. Quindi quello che la domanda è altissima, ma l'offerta è veramente scarsa. Scarsa e scadente. Allora, Cristian da Varese, buongiorno, le chiedo rapidità perché siamo sulla via della chiusura. Sì. Intanto, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno a tutti, a lei e ai suoi ospiti. Io sono un consulente immobiliare di Varese e più che altro era una conferma, nel senso che anche a Varese registriamo nell'ultimo periodo del 2009, inizio 2010, una maggiore propensione all'acquisto del residenziale. Mm. Quindi dopo una forte contrazione negli ultimi anni, dovuta anche alla chiusura un po' delle banche e all'accesso al credito, denotiamo questa tendenza, quindi siamo fiduciosi per il futuro e i dati ad oggi danno... Cristian, in questo momento le trattative fra venditore e acquirente come avvengono? Si fa fatica a mettersi d'accordo sui prezzi? I tempi di compravendita sono ancora oltre i 6 mesi? Qual è il suo osservatorio? Cosa dice a proposito di questo? Ma dall'incontro che facciamo anche con altri colleghi affiliati, il tempo medio è dai 6 ai 7 mesi per la conclusione dell'affare. Metterli d'accordo. Quanto sconto di prezzo deve essere praticato per far concludere una compravendita? Anche un 20%. Al 20% deve arrivare. E insomma, ma questo ci dà modo anche di ragionare sul fatto che se siamo proprietari e pretendiamo assolutamente di fare l'affarone della nostra vita, Castiglia, forse bisogna un po' ripensare e indurre i venditori a ripensare il proprio atteggiamento. Questo l'abbiamo detto tante volte. Voi fate fatica come network immobiliare, i vostri agenti cosa dicono? Ma allora, devo dire che noi siamo agevolati dal fatto che abbiamo una forte collaborazione tra gli affiliati e questo ci permette di facilitare l'incontro di domanda e offerta. È pur vero che i tempi di vendita comunque rimangono abbastanza lunghi generalmente, quindi io ritengo che il giro di boa c'è stato, come ha detto Leverina Marchesi, e quindi coloro che stanno alla finestra aspettando che forse i prezzi scendano ancora, forse dovrebbero ora invece entrare nel mercato e accettare il fatto di dover pagare i prezzi attuali. Quindi sono cautamente positivo sul proseguo del mercato, che dovrebbe, come dire, moderatamente andare in aumento. In aumento. Ghisolfi, 10 secondi conclusivi anche a lei da qui a Natale. Beh, sicuramente il 2010 si chiuderà con il segno più. E posso anche dirti il numero esatto di compravendite, certamente, che ci saranno. Saranno 629.000. Sì. Ben lontane degli 800.000 del 2006, però niente non è, come si suol dire. Però si chiuderà con il segno con più. Il segno più. Per i prezzi invece io mi auguro seriamente che alla fine dell'anno registreremo quella che è una discesa concreta che possa far realmente ripartire il mercato. Discesa concreta di quei prezzi che sono in questo momento inchiodati. Fuori, esatto, perché sono ritenuti fuori mercato. Grazie ad Alessandro Ghisolfi e Dario Castiglia per essere stati con noi, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, a Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Il vostro Salvadanaio torna lunedì, ci sarà lo Scuola Day organizzato da tutta Radio 24 in concomitanza con l'apertura ovviamente delle scuole un po' in tutta Italia. Noi ritorneremo un po' su tutte le spese che le famiglie dovranno sostenere per mandare i figli a scuola. Buon fine settimana a tutti.